Capitolo 11. Il padrone. Quando raggiunsero il paese, la vedova si fermò per aspettarli. Voleva assolutamente fare il suo ingresso con tutta la sua corte, ma Germaine, rifiutandole tale soddisfazione, lasciò a papà Léonard, si avvicinò a parecchie persone di sua conoscenza ed entrò in chiesa da un'altra porta. La vedova ne fu indispettita. Dopo la messa si mostrò dappertutto trionfante sul prato dove si ballava e aprì le danze con i suoi tre innamorati uno dopo l'altro. Germaine la guardò fare e trovò che ballava bene, ma con affettazione. «Ebbene», gli disse Leonard, colpendolo sulla spalla, «non fate dunque ballare, mia figlia? Siete troppo timido?» «Non ballo più da quando ho perso mia moglie», rispose l'aratore. «Ebbene, tanto che ne cercate un'altra, il lutto è finito nel cuore e nell'abito». «Non ho una ragione, papà Leonard. D'altra parte mi considero troppo vecchio. Non amo più il ballo». «Stato a sentire», continuò Leonard portandoli in un angolo isolato. «Vi siete indispettito entrando in casa mia, quando avete visto la piazza forte già attorniata da assedianti, e mi rendo conto che siete molto orgoglioso. Ma ciò non è ragionevole, ragazzo mio. Mia figlia è abituata a essere corteggiata, soprattutto da 2 anni a questa parte, da quando cioè è terminato il suo lutto, e non tocca a lei venirvi incontro. Sono già 2 anni che vostra figlia è da maritare e non ha ancora preso una decisione», fece Germaine. «Non vuole fare le cose in fretta, e ha ragione. Sebbene abbia l'aspetto sveglio, vi sembri forse non riflettere molto, è una donna con un gran buon senso e sa molto bene quello che fa». «Non mi sembra», disse Germaine, «dato che ha 3 pretendenti al suo seguito, e se sapesse ciò che vuole, ce ne sarebbero almeno 2 che troverebbe di troppo e che pregherebbe di rimandare a casa loro». «Perché dunque? Voi non ci capite niente, Germaine. Lei non vuole né il vecchio, né l'orbo, né il giovane, ne sono certo, ma se li rifiutasse si penserebbe che voglia rimanere vedova e non ne verrebbero altri». «Ah sì, già, quelli servono da insegna». «Come dite voi, già, che male c'è se ciò fa loro comodo?» «Ognuno ha i suoi gusti», disse Germain. «Vedo bene che non sarebbe il vostro, ma vediamo, ci si può intendere, supponendo che voi siate il preferito, si potrebbe lasciare il posto a voi». «Sì, supponendo e aspettando di saperlo. Quanto tempo bisogna restare con il naso per aria ad annusare?» «Dipende da voi, credo, se sapete parlare e persuadere. Fino ad ora mia figlia ha capito perfettamente che il periodo migliore della sua vita sarebbe stato quello passato a farsi corteggiare e non ha certo fretta di diventare la serva di un uomo quando invece può essere lei a comandarne parecchi. Così, fin tanto che il gioco le piacerà, può divertirsi. Ma se voi le piacete più del gioco, questo potrà finire». Non dovete far altro che non scoraggiarvi. Tornate tutte le domeniche, fatela ballare e se vi trova più amabile e più educato degli altri, un bel giorno ve lo dirà senza dubbio. Scusate, papà Leonard, vostra figlia ha il diritto di agire come crede e io non ho quello di biasimarla. Al suo posto io agirei diversamente. Sarei più franco e non farei perdere tempo a degli uomini che hanno probabilmente qualcosa di meglio da fare che girare attorno a una donna che si prende gioco di loro. Ma infine, se lei si diverte ed è felice così, ciò non mi riguarda affatto. Solamente bisogna che vi dica una cosa che mi imbarazza un po' dovervi confessare già da questa mattina, visto che avete cominciato con lo sbagliarvi sulle mie intenzioni e che non mi avete dato il tempo di rispondere. Così voi credete ciò che non risponde al vero. Sappiate dunque che non sono venuto qui con l'intento di chiedere la mano di vostra figlia, ma con quello di acquistarvi una coppia di buoi che volete portare alla fiera la prossima settimana e che mio suocero suppone facciano al caso suo. Capisco, Germain, rispose Leonard molto tranquillamente. Avete cambiato idea vedendo mia figlia con i suoi innamorati. Sarà come vorrete. Pare che ciò che attira gli uni respinga gli altri e voi avete il diritto di tirarvi indietro, dato che oltretutto non avete ancora parlato. Se volete davvero comprare i miei buoi, venite a vederli al pascolo. Ne parleremo e che concludiamo o meno questo affare, verrete a cena con noi prima di rincasare. Non voglio che vi disturbiate, rispose Germain. Avete probabilmente da fare qui. Io mi annoio un po' nel veder ballare e nel non far niente. Vado a vedere le vostre bestie e vi rivedrò fra poco a casa vostra. A quel punto Germaine se ne andò e si diresse verso il prato, dove Leonard gli aveva mostrato da lontano una parte del suo bestiame. Era vero che papà Maurice doveva acquistarne, e Germaine pensò che se gli avesse portato una bella coppia di buoi avuta a prezzo moderato, lo avrebbe più facilmente perdonato di aver mancato volontariamente lo scopo del suo viaggio. Camminò velocemente e si trovò presto a poca distanza da Ormeaux. Provò allora il bisogno di baciare suo figlio e anche di rivedere la piccola Marie. Sebbene avesse perso la speranza e scacciato il pensiero di doverle la propria felicità. Tutto ciò che aveva appena visto e sentito, quella donna civetta e vana, quel padre al contempo astuto e poco intelligente che incoraggiava sua figlia in abitudini di orgoglio e di slealtà, quel lusso cittadino che gli pareva un'infrazione alla dignità dei costumi della campagna, quel tempo perso a dire parole inutili e sciocche, quella vita familiare così diversa dalla sua e soprattutto quel disagio profondo che l'uomo dei campi prova infrangendo le sue abitudini laboriose, tutta la noia e la confusione che da qualche ora aveva sopportato, diede a Germain la voglia di ritrovarsi con il suo bambino e la sua piccola vicina. Se anche non fosse stato innamorato di quest'ultima, l'avrebbe ugualmente cercata per distrarsi e rimettere i suoi sensi nel loro stato abituale. Ma guardò invano nei prati circostanti, non vi trovò né la piccola Marie né il piccolo Pierre. Eppure era l'ora in cui i pastori sono nei campi. C'era una grande mandria. Chiese a un ragazzetto che la custodiva se erano le pecore della fattoria di Ormeaux. «Sì», disse il bambino. «Ne siete il pastore? I ragazzi sorvegliano le bestie da lana nelle fattorie, dalle vostre parti?» «No, e le custodisco oggi perché la pastora se n'è andata. Era malata». «Ma non avete mica una nuova pastora arrivata questa mattina?» «Sì, sì, certo, ma anche lei se n'è già andata». «Come è andata? Non c'era un bambino con lei?» «Sì, un ragazzetto che ha pianto. Se ne sono andati entrambi in capo a 2 ore». «Andati dove?» «Da dove venivano, probabilmente. Non gliel'ho domandato». «Ma perché dunque se ne sono andati?» chiese Germain sempre più preoccupato. «Diamine, che ne so io!» «Non si sono messi d'accordo sul prezzo? Eppure doveva essere una cosa convenuta in anticipo». «Non posso dirvi nulla. Li ho visti entrare e uscire. Ecco tutto». Germain si diresse verso la fattoria e fece delle domande ai mezzadri. Nessuno fu in grado di spiegargli il fatto, ma lui era sicuro che dopo aver parlato con il fattore la ragazza fosse partita senza dire niente, portando con sé il bambino in lacrime. «Hanno per caso maltrattato mio figlio?» esclamò Germain, i cui occhi si fecero di fuoco. «Era dunque vostro figlio? E come mai si trovava con quella ragazzina? Allora, voi di dove siete e come vi chiamate?» Germain, vedendo che secondo l'abitudine del paese veniva risposta alle sue domande con altre domande, si spazientì e chiese di parlare al padrone. Il padrone non c'era, non era solito rimanere tutta la giornata quando veniva alla fattoria. Era montato a cavallo e se n'era andato a un'altra delle sue fattorie, non si sapeva quale. «Ma infine», disse Germain in preda ad un'ansia acuta, «non potete sapere la ragione della partenza di quella ragazza». Il mezzadro scambiò un sorriso strano con sua moglie, poi rispose che non ne sapeva nulla, che la cosa non lo riguardava. Tutto ciò che Germain fu in grado di apprendere fu che la giovane e il bambino erano andati dalla parte di Forche. Corse a Forche. La vedova e i suoi spasimanti non erano di ritorno e nemmeno papà Leonard. La domestica gli disse che una ragazza e un bambino erano venuti a cercarlo, ma che non conosce. Lei non aveva voluto riceverli e aveva consigliato loro di andare a Mers. «E perché avete rifiutato di riceverli?» disse Germain di malumore. «Siete così tanto diffidenti in questo paese da non aprire la porta al prossimo?» «Ah, perbacco!» rispose la domestica. «In una casa ricca come questa si hanno tutte le ragioni di fare buona guardia. Io rispondo di tutto quando i padroni sono assenti e non posso aprire ai primi venuti». «È una brutta abitudine», osservò Germain. «E preferirei essere povero piuttosto che vivere così nella paura. Addio, ragazza mia, addio anche al vostro paese di maleducati». Si informò nelle case circostanti. Avevano visto la pastora e il bambino, dato che questo era partito da Bel Air all'improvviso, senza essersi lavato, con la blusa un po' strappata e la sua piccola pelliccia d'agnello sul corpo. E siccome anche la piccola Marie era, non senza ragione, sempre vestita molto poveramente, erano stati presi per dei mendicanti. Era stato loro offerto del pane. La giovane ne aveva accettato un pezzo per il bambino che aveva fame, poi se n'era andata molto rapidamente con il piccolo e aveva raggiunto il bosco. Germain rifletté un istante, poi domandò se il fattore di Ormeaux non era per caso venuto a Forche. «Sì», gli fu risposto, «è passato a cavallo pochi minuti dopo la piccola. Le correva dietro?» «Ah, allora li conoscete? chiese ridendo l'oste del posto al quale egli si era rivolto. Sì, certo, continuò l'oste. È un giovanotto indiavolato per correre dietro alle ragazze, ma non credo che l'abbia acchiappata quella, sebbene dopo tutto, se l'avesse vista. È abbastanza, grazie. Volò più di quanto non corresse verso la scuderia di Leonard. Qui gettò il bastone sulla grise, le saltò in groppa e partì al galoppo nella direzione del bosco di Chantelouve. Il cuore gli balzava nel petto di inquietudine e di collera. Il sudore gli colava dalla fronte, spronava sangue ai fianchi della grisa, che vedendosi sul cammino che portava alla sua scuderia, non si faceva tuttavia precare per correre. Capitolo 13. La vecchia. Germaine si ritrovò presto al punto in cui aveva passato la notte sulla riva della palude. Il fuoco fumava ancora. Una vecchia raccoglieva il resto della provvista di legna secca che la piccola Marie gli aveva ammassato. Germaine si fermò per interrogarla. Era sorda e sbagliandosi sulle sue domande disse: «Sì, ragazzo mio, è qui la palude del diavolo. È un brutto posto e non bisogna avvicinarsene senza gettarvi dentro tre sassi con la mano sinistra, facendosi il segno della croce con la destra. Così si allontanano gli spiriti. Altrimenti succedono delle disgrazie a quelli che fanno il giro». «Non vi parlo di ciò», disse Germaine avvicinandosi a lei e gridando a squarciagola. «Non avete visto passare nel bosco una ragazza e un bambino?» «Sì», disse lei, «si è annegato un bambinetto!» Germaine fremette dalla testa ai piedi, ma fortunatamente la vecchia aggiunse: «È passato già tanto tempo. In memoria dell'incidente vi avevano piantato una bella croce, ma una bella notte di burrasca gli spettri maligni l'hanno gettato nell'acqua. Si può vederne ancora un pezzo. Se qualcuno avesse la sfortuna di fermarsi qui la notte, sarebbe completamente sicuro di non poterne mai uscire prima del giorno. Avrebbe un bel camminare, camminare. Potrebbe fare 200 leghe nel bosco e ritrovarsi sempre allo stesso punto». L'immaginazione del narratore fu colpita malgrado la sua volontà da ciò che sentiva, e l'idea della disgrazia che doveva succedere per giustificare le osservazioni della vecchia si impossessò talmente dei suoi desideri che sentiva freddo in tutto il corpo. Non sperando di ottenere altre informazioni, rimontò a cavallo e ricominciò a percorrere il bosco, chiamando Pierre con tutte le sue forze e fischiando, schioccando la frusta, spezzando i rami per riempire la foresta del rumore del suo passaggio, ascoltando in seguito se qualche voce gli rispondeva. Ma non sentiva che la campana delle mucche sparse nei boschi cedui e il grido selvaggio dei maiali che si disputavano le ghiande raccolte. Finalmente Germaine udì dietro di sé il rumore di un cavallo che correva sulle sue tracce e un uomo di mezz'età, bruno, robusto, vestito come un mezzo borghese, gli gridò di fermarsi. Germaine non aveva mai visto il fattore di Ormeaux, ma un istinto di rabbia gli fece capire subito che era lui. Si voltò e, squadrandolo dalla testa ai piedi, aspettò di sentire quello che l'uomo aveva da dirgli. «Non avete visto passare per di qui una ragazza di 15 o 16 anni con un ragazzino?» chiese il fattore, fingendo un'aria di indifferenza, sebbene fosse visibilmente scosso. «E cosa volete da lei?» rispose Germaine, senza cercare di nascondere la sua collera. «Potrei dirvi che ciò non vi riguarda, amico, ma non ho ragioni per nasconderlo. Vi dirò che è una pastora che avevo assunto per l'anno senza conoscerla. Quando l'ho vista arrivare, mi è sembrata troppo giovane, troppo debole per il lavoro della fattoria. L'ho licenziata, ma volevo pagarle le spese del corto viaggio. E lei se n'è andata arrabbiata mentre io ero voltato dall'altra parte. Aveva tanta fretta che ha persino dimenticato una parte dei suoi oggetti di vestiario e la sua borsa, che non contiene granché, senza dubbio. Qualche soldo, probabilmente. Ma infine, siccome dovevo passare di qui, pensavo di incontrarle e di restituirle ciò che ha dimenticato e darle ciò che le devo». Germaine era d'animo troppo onesto per non esitare sentendo questa storia, se non molto verosimile, almeno possibile. Fissò uno sguardo indagatore sull'altro, che lo sostenne con molta impudenza o candore. «Voglio esserne certo», si disse Germaine, e contenendo la propria indignazione disse: «È una ragazza delle mie parti, la conosco. Deve essere qui in giro. Avanziamo insieme, la troveremo senza dubbio». «Avete ragione», disse il fattore, «andiamo avanti. Però se non la troviamo alla fine del viale ci rinuncio, perché bisogna che prenda la strada di Ardennes». «Oh!» pensò l'oratore. Io non ti lascio, anche se dovessi girare per 24 ore con te attorno alla palude del diavolo. Aspettate, fece d'improvviso Germain, fissando un folto di ginestre che si agitavano stranamente. Olà! Olà! Petit Pierre, sei tu figlio mio? Il bambino, riconoscendo la voce del padre, uscì di tra le ginestre, saltando come un capriolo, ma quando lo vide in compagnia del fattore si fermò come terrorizzato e restò incerto. Vieni, mio Pierre, vieni, sono io! Esclamò l'aratore, correndogli dietro e saltando giù dal suo cavallo per prenderlo fra le braccia. E dov'è la piccola Marie? È là, che si nasconde, perché ha paura di questo cattivo uomo nero. E anch'io ho molta paura. Su, stai tranquillo, ci sono io. Marie! Marie! Sono io! Marie si avvicinò strisciando e appena vide Germain, che il fattore seguiva da vicino, corse a gettarglisi tra le braccia e attaccandosi a lui come una figlia al padre, disse: Oh mio buon Germain, mi difenderete! Non ho paura con voi! Germain fu percosso da un fremito. Guardò Marie. Era pallida, i suoi vestiti erano stati strappati dalle spine durante la corsa mentre cercava il folto d'alberi, come una cerbiatta braccata dai cacciatori. Ma non c'era né vergogna né disperazione sul suo viso. Il tuo padrone vuole parlarti, le disse, sempre osservando i suoi lineamenti. Il mio padrone, disse lei fieramente. Quell'uomo non è il mio padrone e non lo sarà mai. Siete voi, Germain, che siete il mio padrone. Voglio che mi riportiate con voi. Sarò al vostro servizio per niente. Il fattore era avanzato, fingendo un po' di impazienza. È piccola, disse. Avete dimenticato da noi qualcosa che vi sto riportando? Niente affatto, signore, rispose la piccola Marie. Non ho dimenticato niente e non ho nulla da domandarvi. Ascoltate un attimo, riprese il fattore. Ho qualcosa da dirvi io. Coraggio, non abbiate paura, solo due parole. Potete dirla ad alta voce, non abbiamo segreti in comune. Venite a prendere i vostri soldi almeno. I miei soldi. Voi non mi dovete niente, grazie a Dio. Proprio come pensavo, fece Germaine a mezza voce. Ma è uguale, Marie. Ascolta ciò che ho da dirti, perché sono proprio curioso di saperlo. Poi me lo dirai. Ho le mie ragioni. Va vicino al suo cavallo, io non ti perdo di vista. Marie fece tre passi verso il fattore che le disse, chinandosi sul pomo della sua sella e abbassando la voce. Piccola. Ecco un bel Luigi d'oro per te. Tu non dirai niente, capisci? Io dirò che ti ho trovata troppo debole per il lavoro della mia fattoria e che non se ne parli più. Ripasserò da casa vostra uno di questi giorni e se non avrai detto niente, ti darò ancora qualcosa. E poi se sarai più ragionevole, non avrai che da parlare. Ti porterò a casa mia, oppure andremo insieme a parlare nei prati all'imbrunire. Che regalo vuoi che ti porti? Ecco, signore, il regalo che vi faccio io, rispose ad alta voce la piccola Marie, gettandogli in faccia il suo Luigi d'oro e anche rudemente. Vi ringrazio molto e vi prego, quando ripasserete dalle nostre parti, di farmi avvertire. Tutti i ragazzi del mio paese verranno a ricevervi, perché da noi piacciono molto i borghesi che vogliono ingannare le povere ragazze. Vedrete, sarete atteso. Siete una bugiarda e una villana, disse il padrone adirato, levando il suo bastone con fare minaccioso. Vorreste far credere ciò che non è vero, ma da me non otterrete denaro. Si sa come sono quelli come voi. Marie, impaurita, era indietreggiata, ma Germaine si era slanciato alla briglia del cavallo del fattore e scuotendola con forza disse: È tutto chiaro adesso e si capisce bene di cosa si tratta. A terra, caro mio, a terra e parliamo un po' noi due. Il fattore non pensava nemmeno a battersi. Spronò il suo cavallo per svincolarsi e volle colpire con il suo bastone alle mani dell'aratore per fargli lasciare la presa. Ma Germain schivò il colpo e prendendogli la gamba lo disarcionò e lo fece cadere sulla felce, dove lo batté, sebbene il fattore si fosse rimesso in piedi e si difendesse vigorosamente. Quando lo tenne sotto di sé, Germain gli disse: Vigliacco, potrei bastonarti a più non posso se volessi, ma non mi piace fare del male. E d'altra parte nessuna punizione correggerebbe la tua coscienza. Tuttavia, non ti muoverai di qui senza prima aver chiesto scusa a questa ragazza. In ginocchio! Il fattore, che conosceva questo tipo di faccende, volle mettere la cosa sullo scherzo. Sostenne che il suo peccato non era poi così grave, poiché consisteva solo di parole e che acconsentiva a domandare scusa a condizione di poter abbracciare la ragazza, di andare insieme a bere una pinta di vino alla più vicina osteria e di lasciarsi poi da buoni amici. «Mi fai pena», gli rispose Germain, spingendogli la faccia contro la terra, «e ho fretta di non vedere più il tuo brutto muso. Su, arrossisci se puoi, e quando passerai dalle nostre parti, prendi una strada secondaria se non vuoi essere affrontato». Raccolse il bastone di agrifoglio del fattore, se lo spezzò sul ginocchio per mostrargli la forza dei propri polsi e ne gettò lontano i pezzi con disprezzo. Poi, prendendo suo figlio con una mano e con l'altra la piccola Marie, si allontanò tutto fremente per l'indignazione. Capitolo 14. Il ritorno alla fattoria. Un quarto d'ora dopo avevano attraversato gli scopeti. Scarpinavano sulla strada principale e la grise nitriva ogni qualvolta vedeva un oggetto di sua conoscenza. Petitpierre raccontava a suo padre ciò che aveva potuto capire di ciò che era accaduto. «Quando siamo arrivati», disse, «quell'uomo là è venuto per parlare alla mia Marie, nell'ovile, dove siamo andati subito a vedere le belle pecore. Io ero salito nella mangiataia per giocare e quell'uomo là non mi vedeva. Allora ha salutato la mia Marie e l'ha baciata». «Tu ti sei lasciata baciare, Marie?» chiese Germain, tutto tremante di collera. «Ho creduto che fosse un atto di cortesia, un'usanza del posto riservata ai nuovi venuti. Come da voi la nonna bacia le ragazze che entrano al suo servizio, per far loro vedere che le adotta e che sarà per loro come una madre». «E poi, allora», ricominciò Petitpierre, che era fiero di dover raccontare un'avventura, «quell'uomo là ti ha detto qualcosa di brutto, qualcosa che tu mi hai detto di non ripetere mai e di non ricordarmi. Così l'ho dimenticato subito. Però se mio padre vuole che gli dica cos'era. No, mio Pierre, non voglio sentirlo e voglio che tu non te ne ricordi mai più». «In tal caso me lo dimenticherò di nuovo», continuò il bambino. «E poi allora, quell'uomo là ha avuto l'aria di arrabbiarsi perché Marie gli diceva che se ne sarebbe andata. Le ha detto che le avrebbe dato tutto quello che voleva lei, anche 100 franchi. E anche la mia Marie si è arrabbiata. Allora lui le è andato contro, come se avesse voluto farle del male. Io ho avuto paura e mi sono buttato addosso a Marie gridando. Allora quell'uomo là ha detto così: «E questo cos'è? Da dove sbuca questo bambino? Mettetevelo via!» E ha alzato il suo bastone per colpirmi. Ma la mia Marie gliel'ha impedito e gli ha detto così: «Parleremo più tardi, signore. Adesso bisogna che io conduca questo bambino a Forche e poi tornerò». Appena lui se ne è uscito dall'ovile, la mia Marie mi ha detto così: «Scappiamo, mio Pierre, andiamocene di corsa perché quell'uomo è cattivo e non ci farà che del male». Allora siamo passati dietro al fienile, abbiamo attraversato un praticello e siamo andati a Forche a cercarti. Ma tu non c'eri e non hanno voluto lasciarci aspettare. E allora quell'uomo là, che era salito sul suo cavallo nero, ci ha seguiti e noi siamo scappati più lontano e poi siamo andati a nasconderci nel bosco e poi è arrivato anche lui e quando lo sentivamo venire ci nascondavamo e poi quando era passato ricominciavamo a correre per andarcene a casa e poi finalmente sei arrivato tu e ci hai trovati ed ecco tutto quello che è successo. Vero, Marie, che non ho dimenticato nulla?» «No, mio Pierre, è la verità». «Adesso, Germain, voi farete testimonianza per me e direte a tutti quelli del paese che se non ho potuto restare là, non è per mancanza di coraggio e voglia di lavorare». «E tu, Marie», disse Germain, «domanda a te stessa, ti prego, se quando si tratta di difendere una donna e di pulire un insolente, un uomo di 28 anni è troppo vecchio. Vorrei proprio sapere se Bastien o qualsiasi altro bel ragazzo di 10 anni meno di me non sarebbe stato schiacciato da quello là, come dice Petitpierre. Cosa ne pensi?» «Penso, Germain, che mi avete fatto un grande favore e che ve ne sarò grata per tutta la mia vita». «È tutto?» «Paparino», disse il bimbo, «non ho pensato a dire alla piccola Marie ciò che ti avevo promesso. Non ho avuto il tempo. Ma glielo dirò a casa e lo dirò anche alla nonna». Questa promessa di suo figlio diede da riflettere a Germain. Adesso si trattava di spiegarsi con i suoceri e dicendo loro la sua riprovazione nei confronti della vedova Guérin, di non riferire quali altre idee gli avevano dato tanta chiaroveggenza e severità. Quando si è felici e fieri, il coraggio di far accettare agli altri la propria felicità sembra facile, ma essere respinti da una parte e biasimati dall'altra non è una situazione molto piacevole. Fortunatamente, quando arrivarono alla fattoria, il piccolo Pierre dormiva e Germaine lo depose sul suo letto senza svegliarlo. Poi iniziò a fornire tutte le spiegazioni che poté dare. Papà Maurice, seduto sul suo sgabello a tre piedi nell'atrio della casa, lo ascoltò gravemente e, sebbene fosse scontento del risultato di quel viaggio, quando Germaine, raccontando della civetteria della vedova, domandò al suocero se secondo lui aveva il tempo di andare per 52 settimane all'anno a farle la corte, per poi rischiare alla fine dell'anno di essere rifiutato, il suocero rispose inclinando il capo in segno di approvazione. Non hai torto, Germaine, non sarebbe possibile. E in seguito, quando Germaine riferì come era stato obbligato a riportare a casa la piccola Maria al più presto per sottrarla agli oltraggi e forse anche alle violenze di un padrone indegno, papà Maurice fece di nuovo un cenno affermativo con la testa dicendo: «Non hai avuto torto, Germaine, dovevi fare così». Quando Germaine ebbe terminato il suo racconto e fornito tutte le sue ragioni, i suoceri emisero simultaneamente un grosso sospiro di rassegnazione, guardandosi l'un l'altro. Poi il capofamiglia si alzò dicendo: «Su, che sia fatta la volontà di Dio, la trazione non si comanda». «Venite a cenare, Germain», disse la suocera. «È un peccato che la cosa non sia stata convenuta, ma infine Dio non lo voleva, a quanto pare. Bisognerà cercare altrove». «Sì», aggiunse il vecchio, «o come dice mia moglie, cercheremo altrove». Non se ne riparlò più e quando l'indomani il piccolo Pierre si alzò con le allodole all'alba, non essendo più eccitato che per gli avvenimenti straordinari dei giorni precedenti, ricadde nell'apatia dei contadinelli della sua età. Dimenticò tutto ciò che gli era frullato per la testa e non pensò più che a giocare con i suoi fratelli e a fare l'uomo con i buoi e i cavalli. Germain tentò anche lui di dimenticare, immergendosi nuovamente nel lavoro, ma divenne così triste e distratto che tutti lo notarono. Non parlava alla piccola Marie, non la guardava neanche. Eppure, se gli avessero domandato in quale prato ella era e per quale sentiero era passata, non c'era ora del giorno in cui lui non avesse potuto dirlo se avesse voluto rispondere. Non aveva osato chiedere ai suoceri di accoglierla alla fattoria durante l'inverno, eppure sapeva bene che la ragazza doveva soffrire per la miseria. Ma questa non ne soffriva e mamma Guillette non riuscì mai a capire perché la sua piccola provvista di legna non diminuiva e come la sua tettoia era sempre riempita al mattino, quando la sera prima l'aveva lasciata quasi vuota. Lo stesso poteva dirsi per il grano e le patate. Qualcuno passava per l'abbaino del granaio e vuotava un sacco dell'impiantito senza svegliare nessuno e senza lasciare traccia. La vecchia ne fu al contempo preoccupata e contenta. Invitò caldamente sua figlia a non parlarne, dicendo che se si fosse venuta a sapere il miracolo che succedeva a casa sua, la si sarebbe presa per una strega. Era sicura che il diavolo se ne immischiasse, ma non aveva alcuna fretta di rompere con lui, ricorrendo agli esorcismi del curato sulla casa. Si diceva che il momento per farlo sarebbe stato quando Satana fosse venuto a domandarle l'anima come ricompensa ai suoi benefici. La piccola Marie capiva meglio la verità, ma non osava parlarne a Germain per paura di vederlo tornare alla sua idea di matrimonio e fingeva con lui di non accorgersi di nulla. Capitolo 15. Mamma Maurice. Un giorno, mamma Maurice, trovandosi sola nel frutteto con Germaine, gli disse amichevolmente: «Mio povero genero, mi sembra che non stiate troppo bene. Non mangiate come al solito, non ridete più, parlate sempre meno. Forse qualcuno di casa nostra o noi stessi, senza saperlo e senza volerlo, vi abbiamo dolorato in qualche modo». «No, mamma», rispose Germaine, «voi siete sempre stata tanto buona con me, quanto la madre che mi ha messo al mondo. E sarei un ingrato se mi lamentasse di voi o di vostro marito o di chiunque altro della casa. In questo caso, figliolo, è il dispiacere per la morte di vostra moglie che vi riprende. Invece di andarsene con il passare del tempo, il vostro dolore peggiora e bisogna assolutamente fare ciò che vostro suocero ha detto molto saggiamente. Bisogna rimaritarvi». «Sì, mamma, sarebbe anche mia intenzione, ma Le donne che mi avete consigliato non mi vanno. Quando le vedo, invece di dimenticare la mia Catherine, ci penso di più. È che, evidentemente, Germaine, non abbiamo saputo indovinare il vostro gusto. Bisogna dunque che voi ci aiutiate dicendoci la verità. Probabilmente c'è da qualche parte una donna fatta per voi, perché il buon Dio non fa nessuno senza riservargli la sua parte di felicità in un'altra persona. Se dunque sapete dove prenderla, questa donna che vi conviene, prendetela. E che sia bello, brutta, giovane o vecchia, ricca o povera, noi siamo decisi, il mio vecchio e io, a darvi il nostro consenso, perché siamo stanchi di vedervi triste e non possiamo vivere tranquilli se voi non lo siete. Mamma, siete buona come il buon Dio e anche papà Maurice, rispose Germaine, ma la vostra compassione non può portare rimedio al mio dispiacere. La ragazza che vorrei di me non ne vuole sapere. È forse perché è troppo giovane? Innamorarvi di una ragazza non è ragionevole per voi. Ebbene, sì, madre buona, sono così folle da essermi innamorato di una ragazza e me ne biasimo. Faccio del mio meglio per non pensarci più, ma che io lavori o che riposi, che sia a messa o a letto, con i miei figli o con voi, penso sempre a lei, non riesco a pensare a nient'altro. Allora è come se vi avessero fatto un malocchio, Germaine. A tutto ciò non c'è che un rimedio, e cioè che questa ragazza cambi idee e vi ascolti. Bisognerà dunque che io mi mischi e che veda se la cosa è possibile. Adesso mi direte dov'è e come si chiama. Ahimè, mia cara mamma. Non oso, disse Germaine, perché vi prenderete certamente gioco di me. Non mi prenderò gioco di voi, Germaine, perché siete addolorato e io non voglio addolorarvi di più. Non sarà mica la Franchette? No, mamma, no. O la Rosette? No. Ditemi allora, perché non finirei più se dovessi nominare tutte le ragazze del paese? Germaine abbassò la testa e non seppe decidersi a rispondere. Va bene, fece mamma Maurice. Vi lascio tranquillo per oggi, Germaine. Forse domani mi farete più confidenza, oppure vostra cognata sarà più abile nell'interrogarvi. E raccolse il suo cesto per andare a stendere la biancheria sui cespugli. Germaine fece come i bambini che si decidono quando vedono che non ci si occuperà più di loro. Seguì la suocera e le nominò finalmente, tremando, la piccola Marie della Guillette. Fu grande la sorpresa di mamma Maurice. Quella era l'ultima ragazza alla quale avrebbe pensato, ma ebbe la delicatezza di non fare esclamazioni e di fare solo mentalmente i suoi commenti. Poi, vedendo che il silenzio abbatteva Germaine, gli mise il cesto dicendo: «Allora hai una ragione per non aiutarmi nel mio lavoro. Portate dunque questo carico e poi venite a parlare con me. Avete riflettuto bene, Germaine? Siete davvero deciso?» «Ahimè, mia cara mamma, non è così che stanno le cose. Sarei deciso se potessi riuscire, ma siccome non sarei ascoltato, sono solo deciso a guarirne, se posso. E se non potete? Ogni cosa ha una fine, mamma Maurice. Quando il cavallo è troppo carico, cade, e quando il bue non ha niente da mangiare, muore. Vale a dire dunque che morirete se non riuscirete nel vostro intento. Dio non voglia, Germaine. Non mi piace che un uomo come voi possa dire cose simili, perché quando le si dicono, le si pensano anche. Voi avete un gran coraggio e la debolezza è pericolosa nelle persone forti. Su, abbiate un po' di speranza. Io non concepisco che una ragazza in miseria, alla quale fate molto onore cercandola, possa rifiutarvisi. Eppure la verità mi rifiuta. E quali ragioni ve ne dà? Che voi le avete sempre fatto del bene, che la sua famiglia deve molto alla vostra e che non vuole dispiacervi facendomi perdere un matrimonio ricco. Se dice questo, dimostra dei buoni sentimenti ed è onesto da parte sua. Ma dicendovelo, Germaine, lei non vi guarisce affatto, perché vi dice in un certo senso che vi ama e che vi sposerebbe, se noi lo volessimo. Ecco il peggio, dice che il suo cuore non è portato verso di me. Se dice ciò che non pensa per allontanarvi, meglio da lei, è una bambina che merita il nostro amore e che passiamo sopra la sua giovane età a causa della sua grande saggezza. Sì, disse Germaine, colpito da una speranza che non aveva ancora concepito, sarebbe molto ragionevole e molto come si deve da parte sua. Ma se lei è così saggia, Temo proprio che sia perché non le piaccio. Germaine, disse mamma Maurice, adesso mi promettete che rimarrete tranquillo per tutta la settimana? Di non tormentarvi, di mangiare, di dormire e di essere allegro come una volta? Io, da parte mia, parlerò al mio vecchio. E se lo farò consentire, saprete allora il vero sentimento della ragazza nei vostri confronti. Germaine promise e la settimana passò senza che papà Maurice gli dicesse una parola in particolare. Parve anzi non immaginare nulla. L'aratore si sforzò di sembrare tranquillo, ma era sempre più pallido e tormentato. Capitolo 16. La piccola Marie. Finalmente, la domenica mattina, uscendo da messa, la suocera gli chiese cosa aveva ottenuto dalla sua amorosa dopo la loro conversazione nel frutteto. Ma niente del tutto, rispose lui, non le ho parlato. Come dunque volete convincerla se non le parlate neanche? Le ho parlato una sola volta, rispose Germaine, cioè quando siamo andati a Forche, e da quel giorno non le ho più rivolto nemmeno una parola. Il suo rifiuto mi ha talmente addolorato che preferisco non sentirla ricominciare a dirmi che non mi ama. Ebbene, ragazzo mio, adesso invece bisogna parlarle. Vostro suocero vi autorizza a farlo. Coraggio, decidetevi! Ve lo dico, e se è necessario lo esigo, perché non posso restare in questo dubbio. Germaine obbedì, arrivò dalla guillette con la testa bassa e l'aria accasciata. La piccola Marie era sola, vicino al camino, così pensierosa che non l'udì entrare. Quando se lo vide davanti, fece un balzo di sorpresa sulla sedia e divenne tutta rossa. Piccola Marie, le disse Germaine, sedendosi vicino a lei, vengo a darti fastidio e noia, lo so bene, ma... L'uomo e la donna di casa nostra, designando così, secondo l'uso, i capi famiglia, vogliono che ti parli e che ti chieda di sposarmi. Tu non vuoi e io mi aspetto il rifiuto. Germaine, rispose la piccola Marie, è dunque vero che mi amate? Ciò ti dà fastidio? Lo so, ma non è colpa mia. Se tu potessi cambiare idea, ne sarei felicissimo e senza dubbio non merito che questo avvenga. Su, guardami, Marie. Sono proprio tanto orrendo. No, Germaine, rispose lei sorridendo. Siete più bello di me. Non prendermi in giro. Guardami con indulgenza. Non mi manca ancora né un capello né un dente. I miei occhi ti dicono che ti amo. Guardami negli occhi ciò che vi è scritto e ogni ragazza sa leggere questa scrittura. Marie guardò negli occhi di Germaine con la sua sicurezza allegra. Poi improvvisamente volse il capo e si mise a tremare. Oh mio Dio, ti faccio paura, disse Germaine. Mi guardi come se fossi il fattore d'Ormeaux. Non mi temere, te ne prego, mi fa troppo male. Non ti dirò parole cattive io, non ti bacerò contro la tua volontà e quando vorrai che me ne vada, non avrai che da mostrarmi la porta. Allora, bisogna proprio che esca perché tu finisca di tremare? Marie tese la mano all'aratore, ma senza voltare la testa che teneva china verso il focolare e senza dire una parola. Capisco, disse Germaine. Tu mi compiangi perché sei buona. Ti dispiace di rendermi infelice. Tuttavia, non puoi proprio amarmi? Perché mi dite queste cose, Germaine? Rispose la piccola Marie. Volete dunque farmi piangere? Povera piccola, hai del buon cuore, lo so, ma non mi ami. E mi nascondi il viso perché temi di lasciarmi vedere il tuo dispiacere. E la tua ripugnanza. E io non oso nemmeno stringerti la mano. Nel bosco, mentre mio figlio dormiva, e tu pure, ci è mancato poco che ti baciassi molto lievemente, ma sarei morto di vergogna piuttosto che chiedertelo. E quella notte ho sofferto tanto quanto un uomo che brucia a fuoco lento. Da quel momento ti ho sognata tutte le notti. Ah, come ti baciavo, Marie. Ma tu, durante quella notte, dormivi senza sognare. E adesso sai a cosa penso? Penso che se tu ti voltassi per guardarmi con gli occhi che io ho per te, e se tu avvicinassi il viso al mio, credo che per la gioia cadrei a terra stecchito. E tu? Tu pensi che se ti succedesse una cosa simile, ne moriresti di collera e di vergogna? Germaine parlava come in sogno, senza udire ciò che diceva. D'improvviso ella si voltò. Era in lacrime e lo guardava con un'aria di rimprovero. Il povero aratore credette che l'ultimo colpo stesse per arrivare e senza attendere la sua sentenza si alzò per andarsene. Ma la ragazza lo fermò attorniandolo con entrambe le braccia e nascondendo la testa sul suo petto gli disse singhiozzando: Germain, non avete dunque capito che vi amo? Germain sarebbe diventato matto se suo figlio, che lo cercava e che entrò al gran galoppo nella casetta a cavallo di un bastone, con la sorellina in groppa che frustava con un ramo di vinco quel destriero immaginario, non l'avesse richiamato a se stesso. Lo sollevò fra le braccia e mettendolo fra quelle della fidanzata le disse: Guarda, amandomi, non hai fatto felice solo me. Fine.